Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e una forse delle più difficili da quando esiste questo programma. State calmi se potete, sembra l'invito più corretto da utilizzare oggi, anche se i mercati non lo stanno seguendo. I cali assomigliano a dei tonfi veri e propri, già li ricordavamo nel corso del GR, insomma le borse europee stanno perdendo tra il 7 e l'8%, con Milano assieme a Londra tra le peggiori. Il calo infatti in questo momento è dell'8,2% per quello che riguarda l'S&P MIB, dell'8,3% per quello che riguarda il MIBTEL. Peggio di noi non fa in questo momento nessuno, nel senso che Londra perde il 7,2%, Francoforte il 6,4%, Parigi il 7,3%, l'America perde un 4% sul Dow Jones e un 4,8% sull'indice Nasdaq. Per dare un'idea della difficoltà, usiamo degli eufemismi oggi, se no si creano allarmismi, dicevo della difficoltà, nemmeno l'11 settembre del 2001 i cali erano stati così forti. L'11 settembre la borsa perse il 7,4% e sembrò un evento chiaramente eccezionale, visto che erano crollate prima della borsa due torri gemelle. Il calo peggiore a questo dopo l'11 settembre è del 27 aprile del 98, quindi andiamo indietro o alle torri gemelle o a 10 anni di distanza. Tutto si poteva immaginare tranne che i mercati avrebbero accolto in maniera così negativa. Da un lato l'approvazione del piano Paulson è arrivata nel fine settimana, piano più grosso del previsto, non solo 700 miliardi ma anche di dollari, ma anche 150 miliardi di agevolazioni fiscali, né che avrebbero reagito così male al tentativo di un accordo europeo dopo il vertice del G4 di Parigi, né che avrebbero preso così male la decisione tedesca di garantire tutti i depositi bancari in Germania, decisione che evidentemente è stata letta come una situazione peggiore delle attese, una situazione peggiore di quanto non si sia fino adesso comunicato. Delle volte il rischio nel prendere soluzioni e rimedi di emergenza e imponenti e gli dare la sensazione che la situazione sia ancora più grave di quanto denunciato. Già questa mattina era successo di tutto sui mercati asiatici, ripeto, i cali in Europa sono quasi doppi rispetto a quelli asiatici. Il peggior titolo non è Unicredit, anche se Unicredit non se la passa certo bene, il titolo infatti perde intorno all'8%. Ma in questo momento il peggior titolo è Saipem, che perde il 16,4%, Tenaris il 15%, il Banco Popolare il peggiore tra i bancari perde il 15%, Fondiera Sai perde il 14%, Geox perde il 12%, Intesa San Paolo perde il 12%, A2A perde l'11%, Telecom perde il 9% e sotto il valore di un euro per azione a 97 centesimi, Buzzi Unicem anch'essi in calo del 9%, come l'Espresso e come Atlantia, ossia Autostrade per l'Italia, Prismian l'8,7% di calo, Bulgari l'8,3%, Unipol l'8%, BNL l'8%, Seat Pagine Gialle 7,7% come Fastweb, Pirelli 7,7%, Banca Popolare di Milano 7,6%, Alleanza il 7,5%. E ancora Luxottica meno 7,5% come la Popolare di Milano, Fiat il 6,8% di calo, Impregilo il 6,7%, Ubibanca il 6,2%, poi il 5,9% lo perde Monte dei Paschi come Mediolanum e Italcementi media 7,5%. Ci fermiamo con il 5% perché di più non posso andare avanti. Autogrill meno 5,5%. E Mondadori meno 5,6%, Mediobanca meno 5,3%, Lottomatica meno 5,2%, Enel meno 5,1% come generali. Unicredito, incredibilmente, adesso è il titolo che perde di meno dopo Snam Rete Gas, perde solo il 3,4% a 2,97€, comunque un prezzo inferiore all'aumento di capitale che è calcolabile in 3,08 euro per azione, ma ripeto, la banca che perdeva di più da inizio giornata in questo momento è quella che perde di meno. Ora, occorrerebbe poter distinguere tra così, emotività di borsa e elementi razionali. Certo è che non fa piacere a nessuno vedere che le tensioni concentrate prima solo su Unicredit si stanno allargando, espandendo a banche di cui oggettivamente non abbiamo nessuna notizia per dire che avessero esposizioni e svalutazioni per prodotti tossici, come ormai li chiamano tutti, e mi riferisco appunto a Intesa e a tutti gli altri titoli che abbiamo citato, cioè le principali banche italiane. La situazione sull'euro è a quota, l'euro è a quota 1,34,97. Come capite, oggi la puntata è leggermente diversa dal solito, nel senso che apriamo il microfono anche agli ascoltatori, 800 24 00 24, per le vostre telefonate. Parleremo anche dei conti correnti, mi raccomando, nessun panico su questo, cioè la borsa sta reagendo in un certo modo. I conti correnti non corrono nessun pericolo, voglio dire, dal 29 in poi che le banche centrali garantiscono i conti correnti. Cerchiamo di non, diciamo, farci prendere da un'euforia al contrario. E la nota giornalistica è chiara: se si poteva sperare che le iniziative politiche congiunte, soprattutto della scorsa settimana, avessero un risultato di così volume sui mercati, qui più che volume parliamo di Prozac, perché stanno schizzando tutti quanto al nervosismo e le contrattazioni continuano a calare. Allora, il gufo ha una crisi di identità in questo momento, però insomma, facciamo sentire a questo punto anche il nostro gufo, visto che insomma così oggi sembra quasi un elemento così di ottimismo il gufo. E anche il gufo ormai è così, è insufficiente, chi l'avrebbe mai detto? Deborah Rosciani, è da questa mattina che tu segui per Radio 24, nei GR, nel tuo programma, l'andamento delle borse, e allora tra pochi istanti ci racconterai che cosa è successo da inizio mattinata. Eh sì, Deborah, perché questa mattina gli occhi erano tutti puntati sull'Asia, l'Asia ha aperto e ha chiuso male, poi è stata la volta dell'Europa. Buonasera a tutti. È stata la volta dell'Europa che questa mattina ha preso coscienza con una certa chiarezza di come ormai formalmente la crisi finanziaria internazionale, che come sappiamo bene ha avuto la sua matrice americana, si sia trasferita stabilmente, chissà quanto ancora lo sarà a lungo, in Europa. Sicuramente anche il vertice del fine settimana da parte dei paesi del G4 e tutte le iniziative che molti governi si stanno accelerando, si stanno apprestando a prendere, hanno anzi preso per garantire, per rassicurare le famiglie che hanno conti correnti e depositi, e questo non riguarda ovviamente solo il nostro paese ma riguarda le altre economie appunto europee, sono iniziative che in qualche maniera vengono viste come un correre ai ripari in questo momento, e quindi ribadisco la questione della presa di coscienza da parte dei governi di come questa crisi sia molto importante anche per l'Europa in questo momento. Allora, l'apertura questa mattina com'è stata? È stata molto negativa, subito i listini europei si sono collocati ad una perdita del 5%, da lì non si sono risollevati e via via nel corso della giornata invece la situazione è andata peggiorando fino ai cali appunto che abbiamo in questo momento, che sono nell'ordine del 7, 8, 9% addirittura per Piazza Affari. Credo che ancora Milano sia la peggiore d'Europa. Sì, tra l'altro ci sono alcune sospensioni anche per eccesso di ribasso, ci mancherebbe. Fino a poco fa se ne erano 14 molte banche, ma oggi tra l'altro quel fattore di diminuzione del prezzo del petrolio che in altri momenti avremmo guardato come un fattore rasserenante per il mercato, oggi ha peggiorato anche la situazione perché ha fatto scendere pesantemente tutti i titoli energetici, per cui oggi davvero ce n'è per tutti. È una giornata davvero, anche se non ci piace utilizzare questo termine, però da panic selling, perché le vendite stanno imperversando su tutti i settori, su tutti gli ambiti, colpisce particolarmente il sistema bancario, ma oggi ce n'è per tutti. Il tema è a questo punto che tipo di prospettiva si apre per l'economia generale, come come se il mercato stesse dicendo in questo momento andiamo incontro a questo punto ad una recessione che potrebbe essere anche molto profonda. Allora, un calcolo a span, poi verremo anche alla garanzia sui depositi. Sì. Ripeto, state tranquilli, non voglio passare telefonate, adesso iniziamo a aprire i microfoni, ma di persone che dicono cosa devo fare con i miei soldi in banca. Lasciali lì. È molto semplice, stiamo parlando del valore del mercato azionario, non iniziamo a confondere le mele con le pere. Chiaro è che poi, altra cosa, se uno chiedesse cosa devo fare dei miei investimenti, anche lì, lasciali lì, cosa vuoi, vendere adesso. Ma un elemento deve darci il senso delle proporzioni. Il piano americano è un piano da 850 miliardi. Secondo il Fondo Monetario, complessivamente questa crisi alla fine porterà a svalutazioni per 1.300 miliardi di dollari. Allo stato dell'arte, le svalutazioni dichiarate dai colossi bancari mondiali sono tra i 500 e i 600 miliardi. Manca la metà all'appello. Per cui, senza saper né leggere né scrivere, siamo a metà del guado. Poi chiederemo ai nostri ospiti se sono d'accordo con noi. Insomma, questa è la situazione. Si ballerà per un altro po', si ballerà parecchio. Oggi è un maremoto, non è detto che non ve ne siano altri, non è detto che non... che comunque al di là del maremoto non si viaggi in tempesta per i prossimi mesi. Se le stime sono corrette, mancano ancora 600-700 miliardi di svalutazioni all'appello. È ovvio che a questo punto il boccino passa alla politica. Non c'è banca, autorità monetaria, non c'è banca centrale che possa in questo momento intervenire se non c'è un'iniziativa congiunta simile a quella del 29. Però per andare con ordine, ancora un attimo di pazienza ai nostri ascoltatori, sentiamo questa mattina alle 8, prima dell'apertura dei mercati, le rassicurazioni parziali arrivate da Alessandro Profumo dopo che ieri Unicredit, prima banca italiana a entrare nel tourbillon che sta sconvolgendo le banche mondiali da qualche mese, le rassicurazioni di Alessandro Profumo che ha detto: questo aumento di capitale ci serve per rispettare i ratios patrimoniali, adesso è una cosa un po' complicata, che ci vengono chieste dalla Banca d'Italia, non possiamo scendere sotto un certo livello di capitalizzazione, però c'è anche una missione di responsabilità di colpa, chiamiamola così, sentiamo. The scenario is changed, so clearly we have under-evaluated the external market conditions. Clearly, if we are here today to talk of that, is because of the fact we made evaluation mistakes. This is completely clear to us. We have to say that there is a turbulence which has not had any precedent, but the 29 crash. Now the capital issue is addressed and all of us, we are focused in servicing at the best our customers and in managing the business at the best we can. E quindi in conference call con gli analisti questa mattina Alessandro Profumo ha detto: lo scenario è cambiato, ma chiaramente abbiamo sottovalutato le condizioni esterne del mercato. Se siamo qui oggi a parlare di questo è perché abbiamo commesso errori di valutazione. Questo ci è assolutamente chiaro. Dobbiamo anche dire che è in corso, ha continuato Profumo, un periodo di turbolenza sui mercati che non ha precedenti se non nel crack del 29. Non lo diciamo noi, lo dice il numero uno della prima banca italiana. Ora che la questione del capitale è stata affrontata, siamo tutti concentrati nel servire al meglio la nostra clientela e nel gestire il business nel miglior modo possibile. Così questa mattina Alessandro Profumo, una missione di errori, di sottovalutazione, di un periodo di turbolenza che non ha precedenti sui mercati. Allora, mentre ci ha raggiunto in studio anche il capo redattore della Finanza, delle pagine di Finanza del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Le prime telefonate, poi continuiamo col racconto di Deborah Rosciani e anche con l'analisi di Alessandro Platerotti. Allora, c'è Marco da Varese e poi vedo anche Roberto da Ferrara. Marco, buonasera. Buonasera Sebastiano. Buonasera, prego. Allora, io volevo fare un intervento a proposito delle rassicurazioni che fanno i vari governi, anche il nostro presidente Silvio Berlusconi. Penso che sia corretto rassicurare gli investitori, quindi i cittadini italiani, per quanto riguarda i propri depositi presso le banche, anzi sia fondamentale, perché qualora dovesse cadere questa fiducia cadrebbe veramente tutto il castello. L'unico mio appunto che volevo fare è che si viene sempre rassicurati per quanto riguarda i depositi bancari, quindi soldi che stanno sul conto corrente. Ma a mio parere questo, penso sia un dato positivo, è solo una piccola parte. La maggior parte dei cittadini hanno solo una piccola parte dei propri risparmi sul conto corrente. Ha perlomeno, penso, dei soldi bloccati attraverso investimenti pronti contro termine, o comunque investimenti vincolati che diano qualche punto in più di liquidità. Quindi rassicurare solo in termini di conto corrente vorrebbe dire rassicurare solo il 10% dei risparmi di ognuno. Chiarissima la domanda. Adesso tra qualche istante la risposta. Vorrei sentire anche Roberto da Ferrara. Buonasera Roberto. Buonasera dottor Barisoni. Innanzitutto mi congratulo con il suo modo di condurre la trasmissione, perché è sempre moderato ed efficace. Il mio intervento vuole essere di questo tono. Di fronte a un problema bisogna andare a risalire alle cause, quelle vere, per capire che cosa effettivamente sta succedendo, perché altrimenti si parla di sintomi, si parla di effetti, ma se non si parla delle cause non si riesce a capire. La gente vede questa crisi, però dice: ma da che cosa è determinata questa crisi? Io 2 anni fa avevo un po' di risparmi e decisi, faccio questa piccola premessa. Sì, veloce, però che ci sono molti ascoltatori, grazie. E ho venduto tutto perché secondo me c'era 2 anni fa una situazione, da quello che io vedevo nel mio lavoro, che io non sono un economista o né un bancario, ma la gente con cui mi relaziono, che la situazione economica non era buona ed è sempre andata peggio. E mi chiedevano: ma come mai lei vende tutto? Come mai vende tutto? Ho detto: perché vedrete che secondo me qualcosa di grosso deve succedere. E così è stato. Ora, io sono rimasto scandalizzato sentendo la sua trasmissione un mese fa circa, sentendo fare un'affermazione da un tal professor Zingales, se non ricordo male, che imputava tutta la colpa ai mutui subprime. Cioè, continuare a dire una baggianata del genere. No, allora, mi ricordo l'intervista, la interrompo subito, ho capito benissimo la domanda. Inizialmente molti osservatori dissero che la colpa era che tutto il bubone era sui mutui subprime. Comunque adesso le girerò Alessandro Praterotti. Noi la settimana scorsa abbiamo citato il fatto che il calcolo a spanne del danno che farà la svalutazione immobiliare in America è circa di 100 miliardi. Siccome il governo ne ha chiesti 700, mancano 600 miliardi l'appello. Alessandro Praterotti, iniziamo da qui e poi veniamo anche ai depositi bancari e ai conti correnti. È chiaro a tutti che a questo momento, a questo punto, la bolla immobiliare è una piccola fetta del danno, non raccontiamoci. Ma io direi di più, penso che il nostro ascoltatore ha ragione da vendere. Prima di tutto, i mutui subprime rappresentano una frazione che può essere sia del 10 o del 15% del mercato totale immobiliare. Secondo, io vorrei sapere dalle banche quante sono le insolvenze sui mutui, che non mi risulta che siano per niente alte, quindi parlare di crisi di mutui è del tutto fuorviante in questo momento. La casa te la riprendi, ma certamente, ma semmai quello che bisogna parlare è la crisi del castello di carta che è stata costruita sui mutui, cioè tutto quello sui prodotti finanziari, l'ingegneria finanziaria, le cartolarizzazioni, la frammentazione, la suddivisione del rischio legato ai prestiti tra un insieme di soggetti che non avevano le basi per poter reggere un contraccolpo. E qui parliamo di tutto l'insieme di banche di piccole, medie e grandi dimensioni che in realtà non si erano attrezzate con degli asset reali per far carico all'insieme degli impieghi che loro davano sul sistema. Quello che credo si possa veramente oggi dire è che tutto il sistema finanziario è vissuto pensando che in un futuro i soldi sarebbero rientrati chissà da qualche parte, perché il livello di prestiti al sistema, e non parliamo soltanto di case ma parliamo in generale di tutto il settore consumi ed economia, non erano supportati da un collaterale o da garanzie reali, quelle che chiedono a noi in banca quando andiamo a chiedere dei soldi. Allora, diciamolo a tutto come ha appena spiegato Alessandro Praterotti: un conto è se io chiedo a Praterotti 100.000 euro per comprarmi una casa e poi magari sono a rischio, non riesco a ripagarli e lui si prende la mia casa, per cui il danno che può essere, magari quanto svaluto il mercato del mattone, 10-20%, ci perderà 20.000 euro al massimo. Altra cosa, se Praterotti, dopo che mi ha prestato 100.000 euro, gira questo prestito a Deborah Rosciani e si becca un interesse su questo, la Deborah Rosciani lo gira... Ma nemmeno lo gira, lo frammenta in 10. Lo frammenta in 10, ne dà 10.000 alla Rosciani, 10.000 al tecnico, 10.000 a Barbara Bianchi. Ci costruisce le assicurazioni e via sopra. Così. E poi, se in tutto questo c'è anche un'assicurazione che va a garantire Praterotti, Rosciani, Barisoni sull'eventuale rischio che io non paghi, voi capite che questo è il castello, ma non c'entra nulla il fatto che io poi alla fine non riesca a pagare il mutuo, tanto c'è una casa di mezzo. Ma no, è peggio, perché anche l'assicuratore prendeva, metteva a garanzia delle assicurazioni che faceva quei prodotti che la Rosciani ci aveva venduti. Per tutta cui, colpa mia. Vabbè. Detto questo, la seconda domanda, che è quella più attuale, perché io capisco tutto, ma non possiamo oggi, in questa giornata, l'abbiamo fatto in numerose puntate, analizzare in maniera un po' così accademica e fredda i motivi della crisi. Adesso le domande sono altre, ossia che garanzia ha il sistema e più o meno quando se ne esce. Alessandro Paterotti, il ragionamento, le garanzie, tutti i governi, perlomeno quello tedesco, quello irlandese, anche Francia e Italia, vedrai che faranno lo stesso, le danno sui depositi bancari. La maggior parte dei risparmi però possono essere in pronti controtermini, in obbligazioni, in prodotti azionari, in fondi pensione. Sì, certo, io la prima cosa da dire intanto è che ci dimentichiamo che i nostri depositi sono garantiti, cioè certo. Non è che ce li deve garantire in questo momento lo Stato, qualunque Stato in tutto il mondo, i depositi bancari sono garantiti. Certamente questa cifra varia, può variare paese in paese, qui siamo fino a 100.000 euro, grosso modo. Ora bisogna vedere quanta gente ha sul conto corrente più di 100.000 euro e si sente esposta al rischio che la propria banca fallisca. Noi, diciamo così, in questo momento non ci sono stati fallimenti di banche commerciali e di una certa entità per cui si è perso il risparmio vero, quello che è sul conto corrente. C'è da porsi il problema se vada garantito o alzare la soglia di protezione dei depositi, o nel caso in cui non volessimo agire sui depositi, quali altre forme di risparmio va garantito. E qui le idee possono variare dalle obbligazioni ai pronti controtermini ad altre forme di risparmio. Certamente garantire tutto l'insieme del risparmio completamente lo vedo come un'utopia e probabilmente è oggi soltanto un messaggio rassicurante che si vuole dare al mercato o al risparmio, perché proteggere tutto è molto difficile. Sentiamo ancora le telefonate, 800 24 0024 per il numero verde, 349 238 6666 per i vostri sms, Maurizio da Bolzano e poi Sandra da Milano. Maurizio, buonasera. Buonasera Barisoni, io vorrei fare un discorso un po' più generale. Non è che l'economia possa crescere all'infinito, no? Sarà ora di smettere di crescere, la terra c'ha dei limiti, no? E allora non si, anche il discorso del PIL, è un po' di tempo che si parla che il PIL non è più una misura della reale benessere delle popolazioni, eccetera. Quindi cos'è tutta questa storia? Questo potrebbe essere il primo segnale di un'inversione di tendenza. Il capitalismo non sarà mai più come prima dopo questa storia. Allora, Maurizio, qui le rispondo io. Lei mette insieme un po' di cose. Un conto è il ragionamento di lungo termine, medio termine, per cui capire se il PIL sia un buon indicatore del benessere. Ne abbiamo parlato molte volte in periodi più tranquilli. C'è chi ritiene che il PIL non dia il senso del benessere. Ci sono gli economisti della felicità. Ora però forse è il caso di chiamare più uno psicanalista oggi che un economista, perché qui nel presente va benissimo che cambino anche gli indicatori produttivi, ma qui i mercati stanno perdendo più dell'11 settembre 2001, cioè occupiamoci anche dello straordinario. Poi, come abbiamo sempre fatto, le assicuro, quando la situazione sarà tornata più tranquilla ci occuperemo anche degli scenari più nel medio e medio-lungo. Vorremmo arrivarci al medio-lungo termine e vorremmo continuare ad avere anche noi lo spazio di borsa. Sandra da Milano, buonasera. Buonasera, senta, io mi allaccio alla cosa che avete detto prima, che Francia e Italia garantiranno anche loro i depositi, però su conto corrente, ma voi sapete che le famiglie italiane, anche per politica delle banche, hanno poco conto corrente, quindi magari hanno delle obbligazioni bancarie, facciamo finta. Non so, io ho delle Intesa, delle Cariplo, queste qui cosa succede? Diventano carta straccia oppure sono garantite? Alessandro. Io direi questo, serve veramente moderazione, non mi sembra che nessuna banca abbia chiuso gli sportelli all'improvviso, stati chiusi i conti, quindi è importante restare con i piedi per terra. Qui si sta ragionando su scenari, io mi auguro assolutamente non solo ipotetici ma del tutto remoti nel tempo, cioè non credo e non sembra assolutamente che all'orizzonte ci siano dei rischi per cui uno dice il mio risparmio va in fumo. Certamente quando si comprano dei prodotti finanziari che hanno una componente di rischio si deve sapere che se quel rischio aumenta aumentano anche le possibilità di perdere i soldi, ma questo è naturale in un qualsiasi forma di investimento. Certamente ci sono chi ha investito, chi ha comprato tanti titoli di Stato in questo momento si sente più tranquillo. È chiaro che è sempre tutto proporzionato alle somme che si investono e a quanto si vuole guadagnare. Il risparmiatore oculato da tempo è stato che è un bravo consigliere in questo senso, raccomandato di tenere più quota in contanti, più quota in titoli, chiamiamo un titolo di Stato, rientriamo nella stessa categoria in quanto sono immediatamente negoziabili, per cui in questo senso io direi non facciamoci la testa prima di essercela rotta, perché onestamente poi soprattutto non siamo ancora... facciamo il punto dove è arrivato il danno, cioè qui non è che sia tutto il corpo. No, io dico la... una cosa, qui il danno grosso lo subisce chi è sul mercato azionario, in questo momento chi ha investito i propri soldi in azioni corre grandissimi rischi. Ci sono i fondi comuni di investimento che purtroppo ormai poi non è nemmeno una cosa nuova, da tanto tempo o rendono poco o sono colpiti dai riscatti. Ci sono gli investimenti nei paesi, ecco, anche lì andiamo a guardare quanta gente è stato raccomandato di investire nei paesi in via di sviluppo. Oggi guardavo la borsa sudamericana, il Bovespa perde il 50% all'inizio dell'anno, la Russia è stata chiusa. Io dico, qui è un momento di concentrarsi probabilmente sul proprio mercato domestico, dove si può avere più visibilità e conoscenza delle imprese su cui si investe. Questo è il punto. Oggi guardavo i volumi della borsa di Londra, che noi la prendiamo sempre un po' come punto di riferimento. Nel primo pomeriggio avevano scambiato sì e no 500 milioni di titoli contro una media giornaliera di 1,5 miliardi di titoli. La gente ha paura di investire sulla borsa. Finché non sarà chiaro che cosa succede, l'investimento azionario è quello che sicuramente è più a rischio. E allora... fasciate la parte che duole, come diceva Alessandro Platerotti, non fasciate l'intero corpo per non saperne leggere né scrivere. I depositi bancari non hanno nessun problema, le banche ci sono asset, i titoli, anche Tenaris che ha perso il 15% oggi ma continua a produrre tubi d'acciaio e laminati, Saipem continua a fare impiantistica per quello che riguarda gli impianti energetici, non è che Fondiera Sai continua a assicurare, la Geox ha perso il 13% ma continua a vendere scarpe. Cioè, voglio dire, un conto è il valore del corso azionario, un conto è dire che non c'è più l'asset, come si chiama in gergo. E allo stesso tempo, Alessandro, però una preoccupazione ce l'abbiamo, perché sappiamo che sugli sportelli bancari negli ultimi mesi, e abbiamo avuto segnalazioni degli stessi bancari, è arrivata molta pressione, e sta cosa qui purtroppo l'abbiamo già vista in altri anni, a collocare certi prodotti. Allora sarebbe interessante capire anche quanto, diciamo, le banche hanno scaricato, tra virgolette, sui clienti esposizioni che avevano in casa loro, e poi invece magari adesso le hanno i clienti e non più le banche. Ma io direi così, che intanto dopo le brutte esperienze di Cirio e di Parmalat, un po' più di attenzione al sistema bancario c'è stata. Magari ci sarà stato qualcuno che ha avuto dei comportamenti un po' troppo leggeri nei confronti di persone che magari avevano meno competenza finanziaria, quindi insomma ci sarebbe anche da chiedersi se le varie direttive come la MiFID devono servire proprio ad avere un rapporto più equilibrato fra consulente finanziario, fra servizio di consulenza e investimento. C'è stato i risparmiatori italiani, prima di dire che sono stati truffati, io vorrei vedere realmente delle situazioni, certo, di crisi che per ora non abbiamo visto in Italia. Insomma, io ripeto, semmai quello che si può dire che il risparmiatore deve stare attento: uno, andare in banca e chiedere bene che cosa si ha nel portafoglio e che cosa si rischia. Questo è il momento, esatto, che è quello che stanno suggerendo tutte le associazioni dei consumatori. Non adesso, c'è esatto dubbio, andare a... che cosa ho in portafoglio, quanto rischio, quanto incasso se lo vendo oggi. Queste sono le domande chiave. Ricordiamoci anche le società più sofisticate hanno un meccanismo che si chiama stop loss, ovvero quando la perdita diventa troppo alta, meglio accusare un colpo minore oggi che sia il doppio domani, o aspettare che tra 10 anni si riprendano i soldi. Però è importante questo, guardare bene i comportamenti delle banche, le misure adottate dalle banche per rafforzare il proprio patrimonio. Abbiamo visto Unicredito adesso nel bene o nel male, il Profumo dice che ho sbagliato, però sono state prese una manovra da 9 miliardi di fatto, per cui si sta rafforzando. È importante che tutte le banche prendano delle misure per dare tranquillità ai propri clienti, al mondo risparmio, che sono pronti a reggere un'emergenza. Basta. Oggi è più importante che il segnale venga dal sistema che venga dal risparmiatore. Basta vedere anche quello che è successo con le banche che hanno collocato le obbligazioni Lehman Brothers, che in qualche maniera adesso qualcuna sta tentando di studiare delle mosse per potersi riacquistare questi prodotti, o comunque non far sostenere tutto il peso di questi investimenti non idonei ai sottoscrittori, in sostanza. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Roberto da Udine ha chiamato all'800240024. Buonasera. Buonasera a voi. Io vi seguo quotidianamente e voi lo scorso anno alla vigilia di Ferragosto avete iniziato a parlare dei mutui subprime. Sì. E poi è stato tutto un crescendo. Ma io mi faccio una domanda, come tanti se la faranno: ma è mai possibile che tutto questo dipenda dal aver concesso dei mutui a clienti poco solvibili, costruendo poi sopra un castello un castello di carta. C'è sotto qualche altra cosa? Come lei dice, sotto il tappeto c'è altra immondizia che potrebbe scoppiare, non legata ai mutui subprime? Perfetto, a questo punto, con quello che è successo, sì. E io allargo la sua domanda, Roberto, se d'accordo, Alessandro Platerotti, chiedendogli a che punto siamo del guado. Cioè, due sono le domande che si pongono gli ascoltatori. Una risponderà più avanti Deborah Rosciani: quanto garantiti sono i nostri depositi bancari? Ma l'altra è: a che punto siamo del guado? Allora, un anno e due mesi fa, ad agosto, la puntata se la ricorda bene Roberto da Udine, scoppia la crisi mutui subprime e l'economista Mario De Aglio ci dice: secondo me le banche non sanno nemmeno loro quello che hanno in portafoglio. Sembrava una butade, sembrava un'esagerazione, mo sappiamo che è la verità. A che punto siamo del guado? Beh, se parliamo al punto del guado, io dividerei in due parti. C'è un problema che riguarda il mondo bancario e finanziario e un problema che riguarda l'economia. Vanno affrontati, sono due guadi diversi. Per quanto riguarda l'economia, oggi non stiamo ancora assistendo a un'ondata di fallimenti, quindi vuol dire che lì non siamo, siamo all'inizio di un processo di cui però bisogna seguire con grandissima attenzione, perché il rischio vero è che questo, quando noi guardiamo al guado delle banche e della finanza, in realtà si crea un'onda lunga che sommerge l'economia. Allora che cosa bisogna fare? Le cifre non sono importanti, sono 1.500 miliardi di svalutazioni piuttosto che 1.300 o 1.700, sono cifre talmente alte che la gente non riesce nemmeno a seguirle. Quello che è importante è che i governi si attivino immediatamente e rapidamente per sostenere il mondo delle imprese, per sostenere chi deve fare investimenti, deve andare in banca a chiedere il denaro e oggi non glielo danno, o glielo danno a dei costi più che proibitivi. Quindi più che guardare solo al problema delle svalutazioni, che in questo momento è il danno che le banche stanno pagando per aver fatto scelte di investimento sbagliate, sarebbe opportuno cominciare a guardare a dei piani di sostegno dell'economia, delle imprese reali. Quando sento i nostri politici, i nostri governanti dire si tornerà ad un'economia più reale, un'economia meno finanziaria, io penso che il primo passo sia quello di attivare degli sportelli per assistere le imprese, ma soprattutto le imprese, per sostenersi in questo momento verso una fase in cui sarà sempre più difficile ottenere del credito. Qualunque economista sa che la fase più brutta per l'economia è la fase finale della crisi finanziaria, perché quella dove saltano, dove ci saranno le insolvenze, i fallimenti e le bancarotte. Ecco, dovremmo attrezzarci fin da subito, non solo per pensare alle svalutazioni delle banche, ma soprattutto per pensare a come sostenere l'economia reale. Hai centrato un punto delicatissimo. Perché? Perché in questo momento tutte le iniziative politiche delle banche centrali sono state tese a salvaguardare le banche, i depositi bancari. Però quello a cui stiamo arrivando, su questo non ci sono dubbi, quando Intesa San Paolo perde il 12% in un giorno, sarà una difficoltà erogare credito alle imprese e ai mutuatari. Ma mentre il mutuatario lo può gestire in un certo modo, l'impresa ha bisogno di linee di credito continuative, grandi e garantite. Ora, o gli stati intervengono per dare, come ha chiesto anche la Presidente Confindustria Marcegaglia sabato da Capri, garanzie che non mancherà l'acqua dove nuotano le imprese, altrimenti lì vai a trasferire il danno dalla parte finanziaria, se ho ben capito il tuo ragionamento, Alessandro, alla parte economica. Si pensa solo, è giusto pensare a proteggere il risparmio, ma pensiamo anche a proteggere i posti di lavoro, che nel lungo periodo sono la vera cosa che rischia. Allora, io devo ringraziare Alessandro Platerotti. Grazie, perché a voi. Come capite, oggi ha una giornata un po' intensa. Se avanti così, Alessandro, fa un po' non c'è più le pagine. Speriamo che aumentino, visto che la gente vuole essere più informata. Grazie, grazie a presto. Alessandro Platerotti. Deborah Rosciani, scusate se sorridiamo, ma non è che si può fare la puntata da 2 di novembre oggi. Deborah Rosciani deve rispondere a una delle domande più delicate che stanno arrivando. Intanto però prendo anche la telefonata di Antonio da Roma. Sei in collegamento, Antonio, buonasera. Sì, salve, buonasera. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Due domande veloci. La prima, le persone giuridiche come sono garantite per quanto riguarda le giacenze secondo i correnti? La seconda, 603.000 euro è per conto corrente o è complessivamente per ogni persona fisica? Allora, le risponde Deborah Rosciani sulla parte dei 103.000 euro. Hanno ragione gli ascoltatori, i BOT e altri investimenti sono fuori da questi 103.000 euro, però la domanda che si fanno tutti è: se io ho 150.000 euro in banca e li ho sul mio conto corrente, non diviso, non cointestato, quanto mi garantisce lo Stato? La Banca d'Italia? Devo risponderti subito prima della pausa. 103.291,38 euro per depositario. Quindi tutto quello che è sopra questo. I vecchi 200 milioni di lire. Tutto quello che è sopra questa cifra non è garantito. Non è garantito a meno che il conto, come tu precisavi, non sia cointestato. In questo caso la garanzia raddoppia e quindi diventa 206.000 euro. Allora, però qui stiamo ragionando di un'ipotesi di accademia, lo dico subito, anche perché poi nel caso occorrerebbe che una banca fallisse. E per ora non se n'è vista una fallire le banche retail, quelle che operano con i clienti. L'unico vero fallimento, Lehman Brothers, era una banca che faceva la banca d'affari di investimento, non aveva clienti, non aveva sportelli, non aveva bancomat. Per cui le banche retail non sono fallite e da quello che noi sappiamo non falliranno mai, perché non c'è un governo in Europa né negli Stati Uniti che si possa permettere una situazione del genere. L'America piuttosto va a 800 miliardi di piano pur che far fallire o anche una compagnia di assicurazioni sui mutui, figuratevi una banca. L'Europa però, nazionalizza. L'Europa nazionalizza, perfino la Gran Bretagna, tranquilli su questo. Dopodiché la legge prevede che i depositi bancari siano garantiti fino alla somma di 200 milioni di vecchie lire e quindi 103 mila euro, ma stiamo ragionando di accademia, non iniziamo a parlare di fallimenti bancari perché sennò facciamo cattiva informazione. Mi sembra molto più rilevante il tema toccato da Alessandro Praterotti, e cioè che le iniziative politiche devono occuparsi adesso delle imprese, devono tenere su l'economia reale, perché è da lì che riparte tutto, anche perché ci avviamo verso la fase più virulenta e cattiva di questa crisi. Su questo non c'è dubbio. La chiusura intanto delle borse, peggio dell'11 settembre 2001, peggio da sempre. Mai così male, e che devo dire, non è panico ma è dato di fatto. Mibtel meno 8,2%, S&P Mib meno 8,2%, Parigi meno 9, e quindi non è Milano la peggiore, capirai. Francoforte meno 7,7, Londra meno 7,3, l'America perde 4,80%, ma insomma la crisi si è trasferita a due piedi, un tackle si direbbe in linguaggio calcistico, tutta in Europa, e come alcuni prevedevano ci siamo. I titoli ve li do, ma potremmo anche fare a meno. Fondiaria meno 15,8, Tenaris meno 15,4, Saipem meno 15,2, Banco Popolare meno 14,7, Geox meno 13%, A2A meno 12%, Intesa meno 11,3, Telecom meno 10,8, Atlantia meno 10,5, Alleanza meno 9,9, Buzzi Unice meno 9,9, Eni meno 9,7, L'Espresso meno 9,6, Prismian meno 9,3%, Bulgari meno 8,6, Pirelli meno 8,3, Fastweb meno 8,1, Seat meno 7,9, Enel meno 7,5 come in pregilo, Luxottica meno 7,3, Unipol meno 7,2 come Fiat, ST Microelectronics meno 6,8 come Italcementi, Mediaset meno 6,5, Autogrill meno 6,3, UbiBanca meno 5,9, Mondadori meno 5,7, l'Automatica meno 5,5 come Unicredito, che alla fine si riporta a 3 euro per azione. Stranissimo il caso di Unicredito, è arrivato vicinissimo al prezzo dell'aumento di capitale e non è la peggiore. Finmeccanica meno 5,3, Parmalat meno 5% come Mediobanca, chiudiamo con Generali meno 4,8, Terna meno 4,4, Mediolanum meno 3,3, Monte dei Paschi meno 3%, Snam meno 1,5 ed è la migliore. In assoluto il peggior titolo Fondiaria, assai, capirai, meno 15,8, il migliore Premuda più 4,2 l'aeroporto di Firenze. Roberto da Venezia e Renato da Udine. Sì, buonasera. Roberto. Due domande semplici. In un mercato azionario così agitato, chi è che sta vendendo e soprattutto chi è che sta comprando? E seconda domanda è, dato i valori di listino di alcune imprese, sì, che sicuramente in questo momento sono sotto il valore anche magari di, certo, reale capitalizzazione, se c'è rischio di scalabilità? Ma la scalabilità non è un rischio, casomai è un'opportunità per gli azionisti, poi per il manager è un'altra cosa, ma se un'impresa diventa contendibile si offre di più di solito, quindi quello non è un rischio. Magari qualcuno andasse a comprare qualcosa in questo periodo, magari. La prima domanda invece riguardava da un certo punto di vista anche chi sta vendendo e chi sta comprando. Guardi, in un mercato funziona così: io provo a vendere un bene che ho comprato a 10, provo a venderlo a 9, nessuno me lo compra, provo a venderlo a 8, nessuno me lo compra, provo a venderlo a 7, nessuno me lo compra. Troverò qualcuno che me lo compra a 2? Sì, perfetto, ho perso l'80% del valore. È chiaro che qualcuno lo trovo che mi compra in questo momento un titolo come Fondiaria, assai, a 14,3 euro con un calo del 15% in un giorno. Però, insomma, il dato resta. Ancora, dicevo, Renato da Udine. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera Renato. Buonasera, volevo fare una domanda. Premetto che io sono un operaio, quindi non sono un tecnico, ma sono solo affascinato dalla vostra trasmissione. Volevo dire una cosa, diciamo che i conto correnti sono garantiti, c'è qualcuno che li garantisce. Fino a 103.000 euro, sì. Esatto, ma il pantalone, chi è? Visto che sono un ignorante, nel senso, chi è che tira fuori i soldi? Non se fallisce una banca, che lì ci siamo, ma se falliscono due, tre, quattro banche, chi è il pantalone che tira fuori i soldi? Giusto per non parlare banche. Sempre di cosa strada. Sono le banche che alimentano sono il le fondo. Banche che, allora, c'è un fondo, dai tempi del 29, poi ne parleremo con Fabrizio Galimberti, perché non capiti più quella roba lì. Le banche devono avere, accumulare riserve che va a controllare la Banca d'Italia. La Banca d'Italia non fa fare alle banche quello che vogliono, devono avere riserve sufficienti per garantire i depositi che hanno e gli investimenti che hanno fatto. C'è un fondo interbancario che vale, da questo punto di vista, oltre 500 miliardi di euro. Mi riferisco al fondo interbancario a tutela dei depositi, vale circa 500 miliardi, per cui questo fondo è generato dalle banche. Per cui tranquilli su questo, ma nessuno sta parlando di fallimenti bancari. Mi raccomando, cioè, le banche che stanno andando male in Europa sono banche retail che poi abbiano portato dentro nelle loro divisioni finanziarie prodotti tossici, verranno bastonate dal mercato. Ma attenzione su questo, non confondiamo la parte di sicurezza e di garanzia dello Stato, la Banca d'Italia, le riserve auree. Voglio dire, c'è tutto un meccanismo di tutela che permette alle banche di non fallire. Su altre domande, per quello che riguarda i depositi, i conti correnti, garanzie, l'operato della BCE, non spariamo sul pianista. La BCE ha cannato tutto, voglio dire, ha rialzato i tassi a luglio. Trichet dovrebbe venire qua a spiegarci perché l'ha fatto, quantomeno anche lui a cospargersi un po' il capo di cenere. Allora, riepilogo di quello che è successo: un calo, un tonfo. Le borse che affondano non si vedevano dal 1987, adesso c'è anche il dato, quasi 450 miliardi di euro bruciati oggi. L'ultima volta che capitò una cosa del genere era il 1987, quindi 20 anni fa. Abbiamo affrontato nella prima ora del programma un tema delicatissimo: che cosa non fare, e quindi non farsi prendere dal panico, non toccare i depositi in banca. Andare a chiedere alla banca che cosa, qual è esattamente, se uno ha degli investimenti, la propria esposizione, se ci sono dei prodotti a rischio dentro i prodotti venduti, ma stare tranquilli. In secondo luogo, non confondere l'andamento dei titoli in borsa con il valore della società che l'azione rappresenta, perché gli asset, ossia i beni immobili, ci sono. Ora, Saipem può anche perdere il 15% in un giorno o Fondiaria il quasi il 16%, però non è che non ci siano le società. Attenzione. Terzo aspetto, sarà importante vedere l'iniziativa politica. Ormai le banche centrali, quel poco che hanno fatto, la BCE farebbe meglio vergognarsi, a mio avviso, però quel poco che hanno fatto è inutile, deve intervenire la politica. Questa sera c'è il vertice dell'Eurogruppo, c'è in discussione la proposta del ministro Tremonti di destinare a un fondo comune per il salvataggio delle banche il 3% del PIL. In Italia vorrebbe dire che l'Italia dovrebbe destinare 14, 28 sui 42 miliardi di euro come fondo di garanzia. Non vuol dire darli tutti, vuol dire che c'è un fondo di garanzia per le banche anche italiane. Vedremo questa proposta come verrà accolta, anche perché molti si chiedevano, i mercati riusciranno a essere tranquillizzati dal piano Paulson, dal piano Merkel, dal G4? Evidentemente no, perché Parigi ha perso il 9, Francoforte il 7, Milano l'8,2. Per cento. Andiamo con ordine, adesso cerchiamo di capire appunto le prossime iniziative, dove porre le varie linee Maginot, dove si pone la Caporetto di questa, o meglio, dove si pone la linea del Piave di questa Caporetto per quello che riguarda la finanza, tranquillizzando i risparmiatori sui conti correnti, tranquillizzando le imprese sulle linee di credito, perché la crisi non può e non deve trasformarsi da crisi finanziaria in crisi economica. Occorre garantire l'economia reale e non ci può essere una stretta del credito che rischia di diventare sempre più forte, più peggiorano i conti economici delle grandi banche europee, incluse quelle italiane. L'America oggi è meno importante perché perde la metà di quello che non perdono le borse europee. Allora, vi chiedo estrema sintesi. Paolo da Davide da Parma, Marcello da Roma e Pino da Prato. Davide, buonasera. Salve, buonasera. Io volevo semplicemente fare una considerazione naif, nel senso che non sono assolutamente un economista, mi occupo di ricerca in tutt'altro settore. Però la sensazione è un po' che quello che sta accadendo sia un po' legato a una situazione endemica del mercato finanziario, così come è strutturato, credo, dagli ultimi 30 anni. Allora, mi chiedo, visto che ci sono diversi economisti anche del peso, non so, per esempio di Amartya Sen o insomma di questo calibro, che propongono dei cambiamenti E invece la politica, mi ricollego a quello che stava dicendo lei, propone in questo momento delle soluzioni che sono soluzioni senza modificare in realtà le regole del sistema e senza modificare assolutamente quali sì, sono guardi, le caratteristiche. Occorrerà fare, ho capito la domanda Davide, ma adesso in questo momento occorre frenare una situazione che sta rotolando. Questo è il primo intervento. Poi, una volta che l'iniziativa politica a livello europeo e a livello mondiale riuscirà a mettere dei paletti a questa ondata, diciamo, di panic selling sui mercati, sarà la volta delle regole, perché è chiaro che qua devono pagare anche i responsabili e soprattutto ci devono essere regole più stringenti, anche perché i 5 manager più importanti in America dal 93 al 97 hanno ricevuto tra bonus, azioni e salario 68 miliardi di dollari. Il numero uno di Ben Stearns guadagnava 33 milioni di dollari all'anno, quello di Merrill Lynch ha preso per andarsene e far fallire Merrill Lynch 160 milioni. Charles Prince, quello di Citigroup, ha preso una buona uscita prima di beccare 20 miliardi di svalutazioni da 30 milioni di dollari. Ora non è possibile che ci sia un mondo o una casta impunita di persone che fanno crollare la finanza, ma intanto veleggiano verso paradisi caraibici. Marcello da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io volevo ritornare sul discorso dei 103.000 euro, sì. Ossia vale anche per le banche estere, faccio esempio conto arancio che è molto reclamizzato in Italia. Mm-hmm. Chiara la domanda? Prego. E poi il discorso dei 103.000 euro che si moltiplica per il numero di intestatari di conto vale anche per i numeri di conto, esempio, faccio un esempio, io ho 5.000 euro su conto arancio, 5.000 no, euro... No, ho già capito la domanda, no, è 103.000 complessivi per singola persona, sì. Per cui se lei ha, non so, tre conti, ognuno da 50.000, la garanzia è fino a 103.000, come conti individuali. Deborah Rosciani, conto arancio. Sì, sì, per il conto arancio valgono le stesse regole che valgono appunto per le banche italiane, perché a garantire il fondo interbancario di tutela dei depositi, che è un consorzio obbligatorio, appunto ci sono tutte le banche italiane, le filiali operanti in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, mentre per le filiali italiane di banche di altri paesi dell'Unione Europea l'adesione è volontaria, però ING Direct ha aderito appunto al fondo, per cui visto che questo è proprio il tradizionale conto di deposito il più noto in Italia, è chiaro che devono valere queste tutele. Quindi vale anche per conto arancio. Pino da Prato e poi Giuseppe da Reggio Emilia. Buonasera Pino. Pronto? Sì Pino, buonasera. Ah, non sono da Reggio Emilia, da Prato. Sì Pino da Prato, prego. Io tra le analisi che vanno fatte secondo me per capire quello che sta succedendo ritengo che bisogna vedere un pochino quanto è stato il calo, la perdita di risparmio che è entrata nel giro, perché in questo castello di carta si poteva mantenere e andare ancora avanti se la massa del risparmio era buona e in crescita. Poiché non è stato più buona da qualche anno ed è in calo, questo sistema è andato crollando. Tant'è vero che non sarà difficile che questo non si ripercuota poi sull'economia reale, perché gli interessi del risparmio, il guadagno di borsa si riversa poi sui consumi, è un cerchio chiuso. Ho capito la domanda, ma in realtà ne parlavamo prima, il meccanismo per cui questa cosa è caduta è perché si reggeva su, più il castello di carta sale come altezza, e quando giocate con le carte lo sapete, più è fragile no? Ed è probabile la caduta, è venuto meno il valore dei beni immobiliari delle mattoni in America, e questo ha scatenato un'ondata che fra pochissimo Fabrizio Galimberti, editorialista sulle 24 ore, che ringrazio per essere in collegamento con noi, buonasera Fabrizio. Buonasera. Ci racconterà, perché purtroppo le grandi crisi finanziarie si assomigliano un po' tutte. Manca Giuseppe da Reggio Emilia, buonasera Giuseppe. Sì, buonasera, grazie per l'opportunità. Volevo sapere se dopo i grandi scossoni del 29, dell'87, sì, del 98, ci si è ripresi con, diciamo, altrettanti, come dire, insomma, interessanti strattoni, tipo più 10%, o è stata una ripresa più graduale, insomma, ci vogliono decenni per sistemare un po' le cose, oppure... Ok, Fabrizio, mi sembra che siamo, grazie Giuseppe, siamo proprio in tema con il tuo intervento. Che cosa ci insegna la storia delle grandi crisi finanziarie? Ora, o andiamo indietro fino ai bulbi di Tulipano, oppure ci limitiamo al 29, quanto ci vuole per riprendersi e anche, se vuoi, che cosa ha innescato in definitiva questa crisi. Però io vorrei capire, questo raggiungo io, a che punto siamo del guado secondo te? Sì, beh, io intanto escluderei qualsiasi parallelo con il 29, perché era un altro pianeta il 29, il settore pubblico era meno del 10% del PIL, oggi il settore pubblico è il 40% del PIL in media, e quindi già questo costituisce un grosso baluardo, no, all'estendersi della crisi. Ora, e poi appunto c'è anche il fatto che nel 29 furono commessi dei grossi errori di politica economica che questa volta non sono stati ripetuti. Io piuttosto farei un confronto con una crisi che assomiglia molto a quella odierna, che è di soli 15 anni fa e che è la crisi bancaria dei paesi scandinavi, che riguardò la Svezia, la Norvegia e la Finlandia. E fu una crisi che fu preceduta da una grossa deregulation, che quindi lasciò libera via agli spiriti animali dei banchieri, e fu preceduta da squilibri macroeconomici come ci sono stati in America, preceduta da grossi aumenti dei prezzi delle case come è stato un po' dappertutto. Ecco, questa crisi fu risolta in pratica con una nazionalizzazione del sistema bancario. E fu una crisi che durò 3 o 4 anni, perché prima si cercò, come si cerca adesso, di tamponare le falle con una garanzia sui depositi, poi visto che questa non funzionava, allora si procedette a una vera e propria nazionalizzazione del sistema bancario, che poi eventualmente fu restituito, eventualmente in senso inglese, scusate, cioè alla fine fu restituito ai privati con in qualche caso anche un guadagno da parte dello Stato. Ecco, ora noi siamo in mezzo al guado, siamo... Secondo te, so che è difficile, già Alessandro Platerotti diceva a saperlo, ma insomma secondo te a che punto siamo di questo guado, e sei d'accordo che a questo, in questo momento il paletto vada messo, la rete di protezione vada messa anche sulle imprese, che non possono entrare in un vortice di stretta creditizia, non avere più le linee di credito per gli investimenti, per i progetti, per lo sviluppo? Ma io questo non credo, perché finora non c'è stato segno veramente di stretta creditizia sulle imprese, c'è stato segno di stretta creditizia sulle case, questo sì, ma più che stretta creditizia direi c'è stato un crollo della domanda, perché adesso molti si aspettano che i prezzi delle case diminuiscano. Infatti in molte parti sono già diminuiti, quindi quando per esempio si dice che in America si fanno, non so, 10% meno mutui rispetto a prima, però tenete presente che in America i prezzi delle case sono diminuiti del 16% da un anno a questa parte, quindi magari quel 5% meno mutui di prima in termini di metri quadrati di case è positivo. Ora, sulle imprese vere e proprie, se noi guardiamo settembre del quest'anno rispetto a settembre dell'anno scorso, ci sono ancora aumenti dei prestiti a due cifre sia in America che in Europa, quindi la crisi ha portato a una stretta creditizia solo su quella parte delle erogazioni che riguardavano tante operazioni finanziarie fino a se stesse. Fabrizio, in una battuta, perché siamo in chiusura, c'è una cosa che mi ha impressionato prima del ragionamento di Alessandro Platerotti, della seguente: attenzione che la storia ci insegna che la parte più virulenta, più cattiva, più anche insomma negativa di una crisi è la parte finale, quando le banche arrivano anche stremate. Tu vorrei capire se secondo te siamo in una parte finale e se condividi anche questa analisi. Sì, no, infatti anche il proverbio dice che fa sempre più buio subito prima dell'alba. Io direi che in questo momento la crisi, che essenzialmente è una crisi di fiducia, è diventata così virulenta, così pericolosa, che a questo punto saranno obbligati a fare qualche cosa che sia risolutivo. E dato che la potenza di fuoco delle autorità monetarie è praticamente illimitata, ecco, se io dovessi scommettere su chi vincerà il crollo oppure vincerà la stabilizzazione, io direi che vincerà la stabilizzazione. Oh, da. Dopo un'ora e mezza siamo riusciti, e ti ringrazio Fabrizio, davvero una nota positiva per quello che riguarda questa crisi. Fai bene a ricordare che la notte più buia prima dell'alba, non vorremmo ci fosse l'ora legale, comunque si va verso l'inverno con una diminuzione dell'ora di luce, però è verissimo che è così. Non riusciamo a prendere, mi dispiace, Totò da Catania e Dorella dalla provincia di Milano. E a questo proposito io ripeto, calma e gesso, lasciamo che si sfoghino sui mercati queste tensioni, che sono comunque pesantissime. Importantissimo sarà questa sera vedere, e domani mattina, il vertice Eurogruppo, il vertice Ecofin, che cosa decideranno con una situazione che è già cambiata rispetto a sabato scorso a Parigi, per cui se passerà o se otterrà maggiore interesse, favore, il piano proposto da Giulio Tremonti, ossia destinare il 3% del PIL per come fondo comune per salvare tutte le banche che dovessero essere salvate. L'ipotesi non era piaciuta ad alcuni, soprattutto alla Gran Bretagna. Vedremo se gli inglesi continueranno su questa linea. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, e vi lascio adesso al nostro GR. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia.